Central Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. Després de dues setmanes de parada, obligatòria, ens tornem a trobar aquí al dial del 91.6 de l'FM, Ràdio Trinitat Vella. Ja saps que tens un telèfon per participar, que és el 93 345 64 54. 93 345 64 54. Ja saps que aquí a l'EITI sempre repassem bona música, 60, 70, lògicament 80, i breus pinzellades dels 90. Bona música per les teves orelles, a Ràdio Trinitat Vella. I com sabem que teniu ganes de bona música, no perdem el temps i ho comencem amb una formació que en breu traurà un nou disc. Ells són Azul y Negro. I recuperem un dels seus grans temes, No tengo tiempo. minutos. Contando los minutos. No tengo tiempo para pensar. No tengo tiempo de programar. No tengo tiempo para escapar. No tengo tiempo de terminar. Recordar que la formació Azul i Negro va posar banda sonora doncs, a la Volta Ciclista d'Espanya, ja fa uns anys, eh? I qui sigui amant de la música d'aquest estil, d'aquesta formació més concretament, ja sap. En uns mesos, Azul i Negro torna a treure disc. Ara marxem a la vella Itàlia, a la vella Itàlia, per sentir un dels grans clàssics dels 80. Si us dic el nom de Francesco Napoli, què us sembla? Ara, tot seguit, comencen els primers compassos del Balla Balla. Ei, amici europei, esta música per voi è la música che non invecchia mai, è sempre Balla Balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una casetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna, ci porta la fortuna. Canta insieme a me. Uno, due, tre, Paolo. Buonasera signorina, buonasera. Com'è bello con te a Napoli sognare. E continuo sempre a dirti buonasera. Fino a mattina quando il sole scalda già. Le carezze e i tuoi baci nella notte fan tremare le mie mani ancora di più. E se penso che tra poco partirai, morirei e invece so che tornerai. Io t'aspetto un anno intero, tu lo sai. Buonasera signorina, baciami ancora. Buonasera signorina, baciami ancora. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina. Ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore? Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare. Non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare. Non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Balla, balla Italia. Balla Italia. Io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare. Invece sono qui a ricordare, te. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Rivedo ancora il treno allontanarsi e tu asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è possibile un anno senza te a vivere Roma. Ciao amore, goodbye, auf Wiedersehen. Si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli mortalò. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali, al suono di cavigliere del catacali. Gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. Ossessivi, la chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingarelli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi. Deixàvem Itàlia per anar-nos en l'any 82 i sentia Franco Battiato amb aquest Voglio Verti Danzare. En el 2003, Prezioso Fit Marvin va entrar a la seva pròpia versió. Si ja ho diuen, la bona música sempre té bones versions. No deixem el 82 per sentir aquest Just an Illusion, Imagination. It's just an illusion. I què fan les altres? Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. You go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. On the Ritz, putting Putin on the Ritz. Putin on the Ritz. Putin on the Ritz. The Ritz. Dine and wine, but not till noon. The time is right for us tonight. We can move. Move to the rhythm we can. Move. A 1974 sortia al mercat aquesta pel·lícula El jovencito Frankenstein, dirigida pel Mel Brooks, i un dels seus grans números és veure Frankenstein ballant un claqué. I justament fa servir aquest Putin on the Ritz. Això sí, aquesta cançó es va editar en l'any 82. Tornem cap a la Itàlia per sentir una noia molt especial, sobretot pels seus balls, on feia sortir parts del seu cos, anomenat pits. A part del seu boys, boys, boys, ens va portar aquest All of me, boys, oh boy, Sabrina. Thank you. Que sembli que ens hagin traslladat a 60. No. Era l'any 82, quan René i Renato ens portaven aquest Save Your Love. Però mira què fa la música. Ara ens traslladem al 78 i sona molt més modern. Ella és Blondie. El famós Heart of Glass. Thank you. Rad Radio Trinitat Vella 91.6 FM. You wanna get down. No deixem el 82 per sentir a Kool & The Gang en versió en directe. Get down on it. Say what you gonna do. Do you wanna get out? What you gonna do? Do you wanna get out? Say what you gonna do. Do you wanna get out? Wait a minute. I ain't gonna do it if you really don't wanna dance. My sign it on the wall. Tell me. Que sentíem venia des de l'any 88 i el seu títol Rocket to You, la formació de Jets. Hey, I això també és el 88. La formació Fan Fan ens portaven un mega hit mix. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Aquí al dial del 91.6 de la FM, Ràdio Trinitat Vella. Fins llavors, un petó ben fort. Adéu.